La factoria dels 80, amb Rafael Corbí, especial Disco Version. Future Jam. Future Jam. We'll be right back. of my life. Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dancing señorinas in the heat of the sun. Come with me to Pasadena. Day and ten we will arrive. I have been in Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dancing señorinas in the heat of the sun. When I woke up today, I heard someone say, girl, it's raining and they're expecting snow. gaudint d'un número considerable d'extraordinàries cançons i grans records per tota una generació musical, com aquests temes de Rockets, Future Gain, The Secret Service, Flash in the Night, The Maywood en Pasadena, o aquesta fantàstica, joveníssima i meravellosa Kylie Minogue amb I Shall Be So Lucky. Continueu a la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. És una cançó de Status Quo que recorda tot Déu. In the Army Now. Després, a la carta, Tell Him. Fast. I told you it wouldn't last. amo è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è l'altro perché. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. E vola, vola, si va. Tots els temes ballables, siguin d'una manera o siguin de l'altra, ens acompanyen amb aquesta factoria dels 80, com les cançons de Ricky e Pobre, Serà per qui t'hi amo, Dieter Alive, You Spin Me Round, o Aha, amb Love Your Reason, i també el fantàstic i recordadíssim Gibson Brothers amb Què Serà. F.R. David, m'encantava aquesta cançó, Pick Up the Phone. Pick up the phone, oh yeah. walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Oh, Anem tancant la paradeta amb el programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, el Bannon, Romina Power, Felicità, Ryan Parrish, Dolce Vita, Domino, en Hira Yemi, Bernie Paul, en Matten Chion, ens han acompanyat amb els darrers minuts. Gent fantàstica, però que volem continuar tenint al nostre costat, com per exemple, Pino D'Angelo, Evelyn Papà, Evelyn Mamà. Ogni onda era un pirata cattivo, alla fine quasi sempre vincevo. Sopra l'onda c'era una fata, finalmente eri arrivata. Che occhi grandi che avevi allora, perché adesso non sei qui. Già piedi nudi a giocare, ogni sasso era un castello incantato, tu regina del tuo regno fatato, ogni onda era un cavaliere, tutto quel che volevi avere, c'era il mare, era meglio allora, perché adesso non sei qui. Sono solo qua, ora sto in città che deserta sta, aspettando che ritorni tu, amore mio, dammi un po' di più e non finirà. Amore mio, dammi un po' di più e non finirà. És la darrera cançó que tenim per al dia d'avui. S'anomena aquesta peça Bolero. Ells són Bolero i el tema I Wish. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat aquest especial de música ballable a través de la Factoria dels 80. Tornarem en una propera ocasió. Moltes gràcies per haver estat al nostre costat. Fins la propera.